Vi segnalo tre libri. Il primo è un libro delizioso di un autore che l'anno scorso ebbe uno straordinario successo con il famoso Zia Memi, e firma questo libro con uno pseudonimo, Virginia Rowans. Il libro si intitola Un'adorabile coppia, lui, lei, ed è pubblicato da Mursia. Lui appunto è un grande scrittore americano morto nel 1976, un grande umorista, che ci dà un libro che si legge dai due versi, perché da un lato si legge la versione di una storia di una coppia giovane e brillante americana dal punto di vista femminile, e poi si capovolge il libro e si legge dal punto di vista maschile. Poi naturalmente le due storie si intrecceranno. È una storia ironica, leggera, proprio adatta per riprendere il menage familiare. Poi c'è un libro altrettanto ironico di un altro scrittore anglosassone, L'arpa muta. Lui si chiama Edward Gorey ed era un grande umorista, oltre che un grande disegnatore. Questo libro è intitolato L'arpa muta, col sottotitolo Mr. Irbras scrive un romanzo, ed è pubblicato da Delphi. È un romanzo illustrato in cui queste deliziose immagini ci raccontano la vita di un grande scrittore, con tutte le sue bassezze, con tutte le sue debolezze, e quindi è una presa in giro molto intelligente, molto istruttiva sul modo, sul come si scrivono i libri e sulla attività dello scrittore. E in fondo un libro insolito che teoricamente affronta un tema drammatico come quello di un colpo di Stato, ma che vi consiglio perché in questo periodo in cui abbiamo avuto un così brutto dire a proposito della politica, che ha mostrato il peggio in questa estate scorsa, e questo libro che adesso vi segnalo ci fa fare delle riflessioni sulla grandezza anche della politica. Il libro si intitola L'anatomia di un istante ed è di un scrittore spagnolo, Javier Cercas, è pubblicato da Guanda, ed è un libro nel quale, prendendo spunto dal colpo di Stato fallito del febbraio del 1981 in Spagna, appunto lo scrittore rievoca quel momento, quel punto della storia, per fare delle riflessioni molto interessanti e molto profonde appunto su che cos'è la politica, su che cos'è il potere. Quindi è anche un libro che ci può riconciliare con la bella politica, sperando che torni anche in Italia.